E quindi passo la parola in questo senso a Luca. Vai Luca, e questa è la tua sigla. Abbatte, dica, banda Abbatte, dove? Rassegna Stramba, il tappeto sonoro di Luca Abbatte. Buonasera a tutti. Ecco, come avete capito, Luca Abbatte è sempre qui presente nelle vesti, diciamo, di una donna. Luca, torna presto. E che donna! Grazie. Buonasera carissimi ascoltatori, partiamo con la rassegna stampa. Come Samuele ha anticipato, non ho incluso nessuna notizia di nota, perché dopo tratteremo in dettaglio l'argomento. Quindi andiamo più vicino, partiamo dall'Unical. Che sta succedendo all'Unical? A quanto pare lo statuto è da rifare. Il Ministero boccia alcune norme, tra cui la designazione di 5 componenti del Consiglio di amministrazione da parte del Senato accademico. Era la novità, tra l'altro, quella più discussa. Le motivazioni sono che, a quanto pare, ci sono troppi poteri al Senato accademico e un Consiglio di amministrazione non abbastanza indipendente. Questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto il Ministero, a rispedire al mittente, quindi lo statuto dell'Unical. Il documento che ridisegnerà il governo dell'Ateneo, approvato il 18 ottobre 2011 al Senato Accademico, dovrà ripercorrere una parte del proprio iter istituzionale entro 90 giorni prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tornerà quindi nella commissione che ne ha curato la prima stesura e poi negli organi collegiali. Uno stop quindi imprevisto e non proprio indolore, visto che la norma bocciata a Roma è proprio quella sulla quale l'Ateneo si è fermato più a lungo a riflettere. Si tratta della nomina del Consiglio d'amministrazione. L'amatissimo Giovanni Latorre aveva, diciamo, a quanto pare promosso una piccola rivoluzione. Tra i 10 componenti del CDA, ben 7 sarebbero stati nominati. 5 li avrebbe scelti il Magnifico, per poi sottoporre i nomi alla valutazione del Senato accademico. I 2 restanti sarebbero stati disegnati, scelti in una rosa di esterni, dallo stesso Senato. Prego. Abbiamo dalla regia un RPM. Ma basta veramente però! Ma basta veramente questo però! Era il nuovo capolavoro di Bruno Liegi, Baston Liegi. Vai, scusa, l'RVM non si è sentito bene, la regia. Ma basta veramente però! Ma basta veramente però! Il nuovo capolavoro di Bruno Liegi, Baston Liegi. Dunque, dalle stanze del MIUR arriva un invito, serve un maggiore equilibrio nella distribuzione dei poteri. Pensate un po' dove siamo arrivati. Non è tutto. Un'altra norma da rivedere è quella che riguarda la sfiducia al rettore. Secondo la bozza inviata a Roma, la decadenza della più alta carica accademica trascinderebbe con sé tutto il consiglio d'amministrazione, proprio perché il rettore ne designa 5 componenti. Al ministero invece non la pensano così, quindi indicano di cambiare rotta. E non andrebbe bene neppure un'altra cosa, che riguarda il numero di studenti previsti nel Senato accademico. Sarebbero 3 su 21 componenti, mentre la norma vuole che siano almeno il 15%. In questo caso è questione di decimali. O si porta a 20 il numero complessivo con 3 studenti, o si concede una quarta posizione a discapito di un'altra categoria dell'Ateneo. Ci auguriamo la seconda, sinceramente. Eh sì, ma che ci stanno a fare gli studenti del Consiglio di amministrazione? Doveva essere qualcosa di comprovata abilità di gestione. Gli studenti lo sanno tutti, che pensano solamente a fare... Sono giovani, sono ragazzi. Scusa. No, prego Samuele. Dunque, andiamo avanti, spostiamoci verso la 106, perché a quanto pare lo scorso 24 febbraio c'è stata una retata da parte dei carabinieri di Reggio Calabria. Dici che ci sono cosche infiltrate nei lavori sulla statale 106. A quanto pare queste cosche abbiano rivolto richieste del tipo: vogliamo il 4% dell'appalto, pagateci il disturbo. appunto operazione che ha portato al fermo di cinque persone, sequestro di beni per 20 milioni di euro. Avevano imposto una mazzetta e la fornitura di beni e servizi per l'ammodernamento della strada nel tratto tra Reggio e Melito Porto Salvo. Buongiorno, direi io. Buongiorno, direi anche. Allora, vabbè, per entrare in merito, si erano infiltrate nell'appalto per i lavori di ammodernamento e messi in sicurezza della gente 6 nel tratto compreso tra Reggio Calabria e Melito Porto Salvo, imponendo la fornitura di beni e servizi. A quanto pare, diciamo che invece di avere il 4% di somma di denaro, hanno imposto la fornitura dei servizi per tenersi un pochettino più coperti. Sì, ma notizia dell'ultima ora, se non sbaglio, che forse Regina non ha neanche ancora, che queste sono semplicemente manovre di preparazione alla TAV calabrese. Questa sarà la preparazione alla TAV calabrese, insomma, sulla 106 sarà. Ci siamo, fra poco siamo pronti. Spostiamoci sullo sciopero che c'è stato stamattina sui trasporti. Quindi c'è stato lo sciopero generale, in Calabria la situazione è insostenibile. Quindi dalla Camera del Lavoro una serie di precise censure alla Regione, basta con le parole. Il tema dei trasporti resta in primo piano nel dibattito politico all'indomani della seduta del Consiglio regionale dedicata alle gravi condizioni di isolamento in cui versa la Calabria. Sul comportamento della mobilità, i sindacati confederali hanno indetto appunto lo sciopero di stamattina, nel quale diciamo ci sono alcuni punti importanti. La cancellazione, quindi le motivazioni importanti sono la cancellazione dei treni notturni a lunga percorrenza che ha spezzato di fatto il paese isolando la Calabria. Diciamo le critiche, ma non è solo questo il motivo dello sciopero. Lo sciopero riguarda anche i trasporti, ha l'obiettivo di fermare lo stillicidio sul sistema della mobilità regionale dai tempi infiniti e dalla mancanza appunto di risorse della Salerno-Reggio Calabria e del debole sistema stradale della regione. Infatti per questo, cioè, forse su questi comunisti, insomma, che vogliono sempre scioperare, non sanno ancora della futura progettazione e realizzazione della TAV calabrese, perché loro hanno di cui parlavamo prima, in realtà, di cui loro hanno tolto hanno tolto i treni a lunga percorrenza per poi creare istituzionale un'infrastruttura che unirà la Calabria con la TAV calabrese, la Calabria che collega alla Calabria. Vai Peppe con un pezzo, per cortesia. Una grande opera di importanza storica che questa nazione salverà. E per la grande opera tutti i sudditi in città grideranno viva sua maestà. Una grande opera, macchina economica che i massoni rifocillerà. Perché arrotolo cartine che non si chiamano Rizla. Edifico è scasso, va magro e non collasso. Lo stemma della crew è una squadra col compasso. Parliamo in codice, talmente in codice che a volte nemmeno tra noi ci capiamo un craxo. Palazzi in aree fieri, geometri ingegneri e novi irsi iniziati con altri osceni. Lì si traveste da Val di Susa in una stanza chiusa, se ne abusa penetrando di coi treni. Non abbiamo premi per gare di salto in alto, ma premiamo per vincere le gare d'appalto. Siamo balene in un mare di tanto planto. Noi quelli dritti, voi fritti come fanto. Canottieri se la canottano. fuori locale. Abbiamo appoggi tali che non ci scocciano i legali. Non ci porti, tracci dei corrotti, ma sappi che non ci abbatti come appunta per Perotti. Qui si punta a ponti da 3000 metri rotti, fuori come soffitti tenuti con i cerotti. Esclusiva la villa abusiva arriva, se ti fidi di stracasta non ti si castiga. Il divino Tomo dice che il condono arriva, non trefiamo solo se giochiamo la partita IVA. Viva la diga, e Dio la benedica, ma non tratterrebbe nemmeno la mia vescica. Noi devastiamo il fondale, abusando della credulità popolare, tu non chiamare il CICAP. Uno spazio porto si farà, conquisteremo pure. Vinceranno le elezioni. Piacere! Io mi chiamo Caparezza! Io mi chiamo Luigi delle Bicocche, sono muratore! Lavorare qui è un incubo, ma in giro si pensa solo alla festa di inaugurazione. Pare che ci veniamo a ballare nei cantieri. Ecco, qui siamo tornati dopo un grandissimo pezzo di Caparezza. E torniamo a parlare del piano rifiuti. A quanto pare arrivano notizie da Bruxelles per quanto riguarda le discariche dell'Italia. Non sono conformi alle direttive dell'Unione Europea. Nel mirino c'è la Campania e altre 13 regioni italiane, pronta a scattare la procedura di infrazione. Quindi l'Italia tiene ancora il fiato sospeso sul completamento del piano di gestione dei rifiuti in Campania, che un'altra stagnata l'ha raggiunta con l'annuncio da parte della Commissione europea dell'apertura nei confronti di Roma in una procedura di infrazione per almeno 102 discariche, di cui 3 di rifiuti pericolosi non conformi alla direttiva europea del 99. Nel mirino siti situati in ben 14 regioni, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, dall'Abruzzo all'Emilia Romagna, dalla Liguria alla Lombardia, Piemonte fino ad arrivare Basilicata, ovviamente Calabria, Campania, Marche, Molise, Sardegna e Umbria. Che dire, qui la situazione la conosciamo abbastanza bene, sono denunce che stiamo facendo ormai da molto tempo. Ritorniamo anche questa volta sull'amatissimo governatore Scopelliti. E dunque, dopo, volevi dire qualcosa? Peppe, volevi dire qualcosa? Ma basta veramente però! Ma basta veramente però! Il nuovo capolavoro di Bruno Liegi, Baston Liegi. Ecco, e mo basta veramente. Andiamo a vedere che cosa dice Scopelliti per quanto riguarda il caso Fallara. Dunque, Scopelliti si difende dicendo: firmavo atti che non leggevo, quindi siglavo faldoni di carte, confidando nella responsabilità e professionalità dei funzionari. Si difende così il governatore interrogato in qualità di ex sindaco di Reggio Calabria. A proposito della stessa, quindi Fallara spiega che quando gli chiesi diciamo un conto sulle accuse che gli venivano rivolte, mi disse che era tutto vero e che se ne vergognava. Io le risposi: ti dovevi vergognare prima. Vai Peppe, vai Peppe. No? Non bis, va bene. Ricordiamo quindi per completare che il caso Fallara è quello nel quale Scopelliti risulta indagato per falso in atto pubblico e che verte su alcune indebite competenze che sarebbero state erogate dalla dirigente dell'ufficio finanze del comune di Reggio. Dunque la Fallara nel periodo in cui proprio l'attuale presidente siedeva sulla poltrona di primo cittadino. E spostiamoci sulla questione Fiat. La Fiat, vi ricordate la storia dei tre operai? Quindi la Fiat a quanto pare si rivolge agli operai reintegrati e dice: non ci servite, restate a casa. Quindi, giusto, giusto, giusto. Anche io vorrei che il mio futuro datore di lavoro mi dicesse: non ci serve restare a casa, però mi devi pagare. Fosse fatto così, invece il piano Marchionne, che è un po' più negativo forse, questa cosa è un po' più positiva. Tutti gli operai Fiat dovrebbero stare a casa e la Fiat dovrebbe pagarli tutto quello che si è presa, anche dalle casse dello Stato. Insomma, sarebbe un po' come dire: la pensione ce la paga la Fiat adesso, che tutti i soldi che si è presa, la pensione ce la paga la Fiat. Sbaglio? Secondo me è giusto. Ma la Fiat vorrebbe prenderli in azienda, ma è colpa dell'articolo 18, Samuele. Maledetti massoni, sono stati massoni che hanno fatto l'articolo 18. Dunque, a quanto pare l'azienda manda un telegramma ai tre lavoratori: non intende avvalersi delle prestazioni lavorative dei tre operai di Melfi, reintegrati in base alla sentenza proprio della Corte di Appello di Potenza, accogliendo il ricorso della FIO, che ci fu ai tempi. L'azienda ha inviato un telegramma ai tre operai, lo ha reso noto uno degli avvocati della FIOM. Il 23, la Corte di Appello di Potenza, accogliendo il ricorso della FIAM, ha ordinato alla Fiat di reintegrare nello stabilimento di Melfi tre operai, due dei quali delegati proprio della FIAM, licenziati nell'estate 2010 con l'accusa di aver bloccato un carrello e dunque i processi produttivi durante uno sciopero interno. Quindi penso, sì, è vero, no, colpa dell'articolo 18, colpa del carrello. Ha modificato, ma giusto, l'errore l'hanno fatto loro, giustamente. Chi vi ha detto di iscrivervi alla FIOM? Non ho capito. Uno, secondo voi, te l'ha ordinato il medico? Esatto, scusami, che cos'è questa FIOM? Che c'è? Non ho capito, scusate. Giusto, vuoi andare alla FIOM? Fuori dalla Fiat. Sennò il nome è troppo simile, questo è il problema, il nome è troppo simile. A proposito di sciopero, spostiamoci su un altro tipo di sciopero, però diciamo che le cose sono abbastanza vicine, anzi sono le stesse: sciopero degli immigrati. Provate un giorno senza di noi, dicono gli immigrati. Quindi oggi c'è stato un movimento degli immigrati, i quali dicono: senza operai né braccianti, senza infermieri né muratori, senza imprenditori e colfe badanti, dice, è la terza volta che i migranti lanciano questa sfida, tingendo di giallo le piazze italiane. Le richieste sono ovviamente l'abrogazione della Bossi-Fini, una legge molto, molto fascista, la cancellazione del contratto di soggiorno per lavoro e la chiusura di tutti i CEI, i centri di identificazione in Italia e in Europa, inoltre la cittadinanza immediata ai bambini nati in Italia. Queste sono le richieste dei migranti. Andiamo avanti, un'altra notizia importante è la disoccupazione. Dunque, la disoccupazione a gennaio raggiunge quota 9,2%, il tasso più alto dal 2004. Il numero dei disoccupati a gennaio scorso, secondo le stime previste da Istat, è stato pari a 2.312.000, in aumento del 2,8% rispetto a dicembre. Per i giovani tra i 15 e i 24 anni il tasso di disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro è al 31,1%. Quindi rispetto a dicembre i numeri sono a 2.312 contro dicembre erano solo 64.000 unità, quindi su base annua si registra una crescita della disoccupazione del 14,1%, quindi più 280.000 disoccupati. E non è solo questo, purtroppo. Dall'altro lato si registra un'inflazione da record. In Italia aumenta del 3,3%. Il carrello della spesa sale a 4,5%. A febbraio l'indice dei prezzi al consumo sale del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2011. A gennaio era 3,2%. Il carrello della spesa, cioè i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dal cibo, a partire dal cibo ai carburanti, cresce del 4,5% su base annua. Il rialzo maggiore comunque riguarda la benzina e la verdura, quindi volano i prezzi alle stelle. E dopo questa notizia, cosa dire, Samuele? Dopo che la disoccupazione giovanile è al 31%, il resto i giovani che hanno un'occupazione precaria sono al 47%, e i salari e l'inflazione cresce più del coso. Aspetta, l'inflazione cresce più del coso del carrello dei salari. Diciamo che il futuro è molto roseo. È un RVM. Dio canaia de Dio! Questo è un ricordo per tutti quanti noi. A presto. Canzone! Siamo E questa è una canzone molto importante, almeno per me personalmente è una canzone molto importante, me ne sarei accorto perché l'abbiamo messa più di una volta, ed è quella che ci tocca dei Biscuit più 99 Post. E questa è una canzone che conclude la rassegna stampa e apre quella che è la cronaca politica, in questo senso, questa che è l'analisi politica di questo momento. Non a caso la Radio Blackout, che sta seguendo, come dire, in diretta perennemente il movimento No TAV, oggi non ha fatto nessun tipo di rassegna stampa, appunto perché come segno di protesta verso quello che è un'informazione giornalistica che si presta forse con l'atto di oggi in maniera molto più esplicita del solito alle strumentalizzazioni del potere politico imperante, dei poteri forti che governano questa come dire, che gestiscono che gestiscono i nostri territori e le nostre vite. Ma detto questo, vorrei passare la parola al nostro inviato da Val di Susa, dalla Valle del Crati. Allora, cosa dire? Ci sarebbe tanto da dire, soltanto poco potremmo raccontare di quello che sta succedendo in queste giornate da lunedì in Val di Susa. Inutile dire che cos'è il movimento No TAV, tutti sanno dell'esistenza di questo movimento. Protestano perché? Protestano contro la realizzazione di questa nuova tratta ferroviaria che dovrebbe collegare Torino a Lione, quindi in parte in Italia e in parte in Francia. Innanzitutto cosa dire? Diciamo che non si tratta della costruzione di una rete ferroviaria che in una porzione d'Europa che sta fuori dal collegamento con tutti gli altri luoghi del vecchio continente. Perché? Perché già una rete ferroviaria, una tratta ferroviaria esiste, passa proprio per la Val di Susa, parte da Torino, arriva a Bussoleno e poi passa per Bardonecchia e Modane, e quindi arriva a Saint-Jean-de-Maurienne e Lione. Quindi. I lavori servono a costruire un tunnel di 57 km che parte praticamente da Bussoleno e arriva proprio a Saint-Jean-de-Maurienne, un tunnel che è interamente scavato sotto le colline, sotto i monti della Val di Susa, e che andrebbe certamente ad essere un'opera sicuramente inutile, perché, ripetisco, già c'è una linea ferroviaria. Inutile, costosa, e poi arriviamo anche all'argomento del vil denaro, che è come al solito la forza spingente che sta muovendo i governi d'Europa, non solo quello italiano, a realizzare questa grande opera, come qui citiamo la grande Caparezza, di cui prima abbiamo per l'appunto mandato l'omonima canzone. Oltre ad essere quindi inutile, oltre ad essere fonte di grandi specchi di denaro, rappresenta un obbrobrio da un punto di vista ambientale, perché andrebbe a devastare innanzitutto un paesaggio, quindi andando a colpire l'attività degli agricoltori, degli allevatori della zona, che non sono mica pochi, ma soprattutto c'è un pericolo enorme chiamato amianto. Le colline della Val di Susa al loro interno sono piene di amianto. C'è uno studio fatto dall'ASL di Torino, se mi sbaglio anche in collaborazione con il Politecnico di Torino, non sono certo delle ale estreme del movimento No TAV, non sono certamente autonomi, anarchici o rivoluzionari marxisti che hanno fatto questi studi, stimano questi studi qua la possibilità che ci siano morti fino a 20.000 persone nei prossimi anni proprio a causa dei lavori, a causa dell'amianto. Ricordiamo che il Piemonte è già la regione che più di tutte è stata colpita dalle morti per l'amianto, non la Val di Susa ma il Monferrato. Noi sappiamo benissimo che la zona dove c'erano i vecchi impianti della Eternit, dove sono morte e morirono tantissime persone a causa dell'amianto. Ma vedi come sei mio, Pierpaolo. Tu guarda, pensa che con tutta la disoccupazione che c'è, di cui abbiamo anche accennato, uno ti costruisce una cosa per cui tu potresti lavorare, far lavorare centinaia e migliaia di persone per un lungo tempo, vabbè, che poi muori, che cosa significa? Però chi se ne fotte? Hai risolto il problema dell'occupazione, questo è il punto. La benzina è aumentata ancora! A me che cazzo me ne frega a me? Io c'ho il diesel! questo era un RVM che ci parlava appunto di questa cosa, ma la cosa appunto più importante e più cosa impieremo a sottolineare il fatto che appunto con quale priorità si dà spazio alla costruzione della TAV, che è ben inteso per chilometro, come poi spiegherà meglio Pierpaolo, costa molto, tre volte o di più, tanto quello che costa in altri paesi d'Europa, e invece non si dà nessuno, facendo sulla base di che cosa? Sulla base di stime del traffico, come dire, di merci che ci sarà da qui a 10 anni, si immagina un traffico di merci enorme. E qui ti interrompo perché, sempre secondo un docente del Politecnico, ancora una volta non stiamo parlando di un autonomo, di un anarchico, di un rivoluzionario marxista, non passeranno merci dalla Val di Susa, perché il transito dal tunnel, secondo questi studi qui, è molto più costoso piuttosto che il transito da altre vie di comunicazione già esistenti. Quindi peraltro il dato del transito di merci è strettamente in calo, in quello stesso tratto le merci che passano sono molte di meno, sono progressivamente di meno da un bel po' di tempo. Questa è la cosa. D'altra parte, questa priorità, che si basa su questa fantomatica in crescita economica, mette all'oscuro le esigenze di tante altre comunità, come quella che dicevamo calabrese, che vive l'emergenza quotidiana del dissesto idrogeologico o della bonifica di ampie parti, come abbiamo detto, della Calabria, cose che invece queste emergenze sono messe sempre sotto lo scacco di questo, in secondo piano rispetto alla costruzione di questa grande opera. Sai perché? Ricordiamo poi che, tra l'altro, se poi si vuole andare ancora oltre, in Italia siamo pieni di scuole fatiscenti, di ospedali attrezzati alla meno peggio, di sale operatorie dove manca la luce e muoiono i pazienti. Le vie di comunicazione del Sud Italia, della Calabria in particolar modo, sono fatiscenti, è già forse un termine che ho già utilizzato, che in questo caso qui forse è un complimento. È riduttivo perché sappiamo benissimo in che condizioni sono ridotte le vie di comunicazione del Meridione. Inesistenti per l'appunto. Penso che le vie di comunicazione calabresi meridionali sono un po' come le vie del Signore, sono potenzialmente infinite, nel senso che tu devi scegliertene una, sei in un sentiero non ancora battuto. Infatti. E andiamo adesso a toccare l'aspetto economico, che è quello che ovviamente spinge tutta questa la realizzazione di quest'opera. Tra l'altro, delle tante cazzate per l'appunto che ci vengono a raccontare, un'altra riguarda questo aspetto qua. I soldi destinati alla costruzione li stanno mettendo le banche, ovviamente, inizialmente, con un tasso di interesse del 6,2% e la cui fideiussione, cioè la garanzia, la mette lo Stato, quindi la mettiamo noi in tasca nostra. Ricordiamo che stiamo vivendo un periodo, una fase storica, una fase particolare in cui ma forse la metà dei paesi europei rischiano, secondo quelle che sono poi i parametri del liberismo, il default, così come si piace tanto dire ai nostri economisti. E quindi noi dovremo pagare entro 9 anni 45 miliardi di debito alle banche che hanno finanziato l'opera. Miliardi di euro, non miliardi di lire. Sarebbero 90 mila miliardi di euro circa, poco meno. Quindi praticamente abbiamo individuato i primi soggetti che andranno sicuramente a lucrare sulla realizzazione di questa opera, che sono le banche, e lucreranno in maniera enorme, già che comunque la garanzia la pone lo Stato e di conseguenza questi soldi loro li riceveranno sicuramente, senza ombra di dubbio. Quindi questi qui, praticamente senza fare nulla, stanno guadagnando 45 miliardi di euro. Dicevo, tra le tante cazzate, le tante balle che ci raccontano, altra balla è quella per l'appunto dell'utilità di questa tratta ferroviaria, di questa tratta lunga 54 km, il tunnel, che dovrebbe praticamente migliorare le vie di comunicazione europee. Il tratto Lione-Torino poi fa parte, diciamo, di un percorso più lungo, che dovrebbe collegare da ovest verso est, se mi sbaglio, da Lisbona fino a Kiev. Sì. fino a Kiev all'Europa, quindi una lunghissima via di comunicazione che dovrebbe per l'appunto tagliare da ovest a est il nostro continente. Diceva poco fa Samuele, è una, tra l'altro è in calo il traffico merci che passa a cavallo del confine Francia-Italia e quindi anche questa motivazione assolutamente cade, è assolutamente farlocca. Ma d'altra parte diceva bene Pierpaolo, questa, ora siamo in una fase storica in cui dobbiamo scegliere tra il default degli stati o il default delle banche, sarà una dura scelta che meriteremo. Penso che la soluzione sarà il default dei cittadini. Beh, non lo so, Pierpaolo illustrava la massima che il cane muzzica sempre lo sciancato, però sai, il futuro è ancora incerto, ci pensiamo mentre mandiamo un pezzo, Pippi? Certamente. Vai. Belle parole, attenti ai marinai, lauti guadagni, sorrisi trasversali, nei comizi vi insultate, davanti ai soldi vi abbracciate, ma l'amianto fa male, non diteci stronzate, il primo sondaggio lo fanno sopra la testa della gente, ma niente da fare, neanche uno che si arrende. Lo Stato garante manda i suoi soldati, ma noi non ci arrendiamo, qui ci siamo nati. Noi, no, hai un numero, un nome, un cognome, niente, vero? Sai che sei un illegale, dovresti avere un numero di riconoscimento. E io così non so chi sei, tu sai chi sono io. Vero Pecorella? È vero Pecorella? Sei forte, non c'è roba che c'hai io. Ma sai anche sparare? Sai sparare? Vorrei detto sparare. Non c'è mai detto sparare. Prova, classici problemi tecnici. Chi era questo che diceva Pecorella? Possiamo dire il nome e cognome perché lui stesso lo ha detto davanti agli sbirri. Un attivista notava, Marco Bruno, che per l'appunto apostrofava Pecorella, i Celerini, durante un blocco dell'autostrada A32, se non mi sbaglio, che i militanti Rotav hanno messo in atto per ribadire il loro no alla realizzazione di questa stupida opera. Tra l'altro questo succedeva due giorni fa. Ieri le forze del disordine hanno approfittato degli scontri per fermarlo, malmenarlo, ovviamente, per portarlo, per mettergli i ferri, come si dice dalle nostre parti. Solo uno dei pochi episodi, cioè dei tanti episodi, pardon, che si sono succeduti in questi giorni, non certo il più grave purtroppo, perché è successo ben altro. Diciamo che in questa settimana è stata forse la più dura da quando il movimento No TAV si è messo in moto. Sì, è vero, a luglio dello scorso anno c'è stata una giornata di vera e propria guerriglia tra le valli tra i colli della Val di Susa, ma questa settimana sta succedendo veramente tanto. Sì, queste due settimane, a dire la verità, anche perché dobbiamo notare che sono arrivate le conseguenze un po' di quello che come dire, siamo avendo dei momenti, come dire, esemplificativi di quello che forse è la dinamica di questo nostro paese, di quello che è la dinamica anche della legalità in questo nostro paese. La costruzione di un'opera che non è nient'altro se non una bomba ambientale ed uno sperpero di denaro pubblico a favore degli speculatori è nella più assoluta legalità ed è protetta e tutelata e difesa con i denti e con i manganelli. Quello che è invece la determinazione, la dignità di una comunità che vuole tutelare il proprio territorio e vuole incidere in quello che sono il contesto in cui vive, invece è considerata alla stregua di un sabotatore, un violento, un sovversivo, qualcuno che non ha... A parte che di violento non abbiamo visto chissà che. Se non le azioni della polizia, e poi ne parleremo. È questo, infatti. Procedendo con ordine, sono state due settimane piuttosto ricche e cariche di eventi. Il primo episodio di questa serie, dobbiamo ricordare, sono state le denunce e gli arresti che sono ancora un limpido esempio di quella che è stata appunto l'aggressione verso il movimento che continua verso il movimento No TAV. Un'altra cosa che è in risposta è venuta per questo a questa serie di attacchi giudiziari è stata la determinazione del movimento No TAV, che ha detto: noi non facciamo nient'altro che difendere il nostro territorio, di conseguenza potete se cercate lo scontro, noi non fate altro che compattarci. Questo è stato un momento chiaro. E le denunce hanno colpito... La determinazione dei militanti, attivisti del No TAV è veramente forte, ed è veramente la cosa più importante che sta tenendo in piedi l'intero movimento. Poi potremo parlare di quello che è successo nel particolare in questi giorni, di episodi di cronaca, che poi non è cronaca vera e propria. Giusto un minuto per salutare quello che è stato il nostro, il colpito più a noi vicino. Vorremmo solo fare un saluto a Giuseppe Tiano, il sindacalista dal cuore tenero, il sindacalista più della CGIL che vogliamo, che è stato colpito anche lui. Chiunque conosca Giuseppe o abbia mai avuto occasione di incontrarlo sa bene di quale inconsistenza sia qualsiasi forma di accusa di essere un pericoloso violento, un pericoloso molesto. La sua mitezza è nota e proverbiale. E questo anche è un altro degli elementi che fanno parte dell'attacco a quello che è il movimento No TAV, che qui arriviamo poi alle ultime due giornate, le ultime quattro giornate, nel senso, i due ultimi episodi. Il primo è stato quello che è lo sgombero della baita, che in cui Piemonte. Vuoi parlarne tu? Possiamo farlo entrambi. Era prime ore, diciamo, dell'alba, dopo l'alba, di lunedì mattina, uno degli attivisti più in vista, diciamo, del movimento No TAV, Luca Ba, un coltivatore diretto, come si autodefinisce lui, 37enne, valsusino. Lui è nato a Torino, ma è valsusino, di origine proprio valsusina, quindi non è qualcuno che si è recato lì per creare disordini, no? È un ragazzo che abita da tanti anni e che lavora da tanti anni la terra della Val di Susa. Approfittando della sua conoscenza del territorio, si è arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nei pressi di questa baita, vicino a quello che è il suo territorio di proprietà, peraltro. Ricordiamo che lui, così come tanti altri attivisti, ha utilizzato il proprio denaro, non tanto, per comprare un pezzo di terreno che doveva essere espropriato proprio per poter effettuare una resistenza attiva più efficace. In tanti hanno comprato la terra, hanno detto: ok, noi in questa maniera qua siamo proprietari di questa terra e ci opporremo con tutte le nostre forze all'esproprio. All'apertura dei cantieri. Bene, Luca si è arrampicato su questo traliccio ad un'altezza di circa una decina di metri. Ricordiamo, un traliccio che regge i fili del cavi dell'alta tensione, quindi cosa abbastanza pericolosa. Ebbene, l'unica cosa che i poliziotti, i rocciatori non avrebbero dovuto fare, l'unica cosa che non avrebbero dovuto fare era inseguirlo, arrampicarsi inseguendolo lungo il traliccio. Ecco, l'unica cosa che non dovevano fare l'hanno fatta. Luca, avvicinandosi ai cavi, è stato colpito dall'alta tensione, è stato sbalzato a terra, quindi ha fatto un volo di qualche decina di metri. Ovviamente le conseguenze sono state alquanto gravi, ustioni del terzo grado sul corpo, oltre che i traumi della caduta. Ricoverato in prognosi riservata, ancora se non mi sbaglio, in condizioni gravi, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita, e quindi in coma farmacologico. Non fosse altro che questa è una delle, notiamo anche che tra le prime prove le prove di sagacia, le prove di correttezza delle nostre forze del disordine, basta notare che Luca teneva con una mano un telefono e parlava con Radio Blackout e con altri il traliccio. Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche per le quali lui sia finito sull'alta tensione, sia finito per terra. E nonostante questo, i poliziotti poi hanno aspettato per far arrivare i soccorsi una cinquantina di minuti, giusto il tempo di non hanno fatto avvicinare nessuno a Luca, chi era presente diceva che avevano la battuta facile su questo avvenimento, il che non dimostra molta, come dire, molta preparazione, quantomeno. E qualche quotidiano italiano diciamo che ha seguito lo stesso pessimo humor, intendo Libero, per esempio. Sì, parliamo di immondizia, chiaramente. No, non fosse altro. Vai Peppe, manda un pezzo. Giustizia no, polizia dappertutto. Giustizia no, polizia dappertutto. Giustizia no, polizia dappertutto. È certo che nessuno mancherà di notare il duplice vantaggio di una polizia locale. La gente di quartiere dirà all'imprenditore: se bruci qualche negro non sporcare per favore. Questo a 120, mannaggia l'avvocato. Questo a 120, la cugina col marito. Questo a 120 e di santi non ne ha. Io gli levo la patente, è per questo che sono qua. Polizia dappertutto. Giustizia no. Polizia dappertutto. Giustizia no. Polizia dappertutto. Giustizia no. Polizia dappertutto. Panama mattina sgombero di un'altra palazzina. L'immobiliare prospera, la gente va in rovina. Al pomeriggio scarichi la nuova suoneria. Faccetta nera prima nelle certi polizia. Questo è 180, sono l'eurodeputato. Questo è 180, presidente del senato. Questo è 180, è un collega di Cetai. C'è una festa, si discreto, ci si vede a Bozzaneto. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto. Può darsi che ti senti ingiustamente maltrattato, ma non venirmi a dire che questo è il tuo mestiere, che dei diritti umani sei l'alfiere. Fratello poliziotto, dai fai la cosa giusta, puoi sempre riciclarti come ladro, come artista. Puoi stringere un po' i denti, lavorare come un mulo, o più semplicemente puoi andare a fare in culo. Ma non venirmi a dire che questo è il tuo mestiere, che dei diritti umani sei l'alfiere. Fratello poliziotto, dai fai la cosa giusta, puoi sempre riciclarti come ladro, come artista. Puoi stringere un po' i denti, lavorare come un mulo, o più semplicemente puoi andare. Tanti posti di lavoro, tutti nella polizia. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto, giustizia no. Polizia dappertutto. E torniamo ancora sul movimento NOTAV. Abbiamo detto di Luca Bà, abbiamo detto del ci siamo? Abbiamo detto dell'episodio di Marco Bruno, che in maniera molto divertente apostrofava Pecorelli i Celerini. Diciamo che il culmine della violenza, non ad opera dei attivisti notari, ma ovviamente ad opera della polizia, degli uomini dello Stato, così come li amano definire giornalisti e politicanti, si è raggiunto ieri notte, in pratica ieri pomeriggio, in particolar modo non a Chiomonte ma lì vicino un piccolo paesino Chianocco, vicino allo svincolo dell'autostrada 32, cariche numerosissime e violentissime cariche da parte della polizia, contando i lacrimogeni, camionette che correvano all'impazzata, idranti. Ormai diciamo, sul web si parla della battaglia della rotonda di Chianocco, una rotonda che sta in prossimità dello svincolo autostradale. Lì veramente si è raggiunto l'apice della violenza, perché poi si parla tanto di violenza, poi quando la violenza c'è veramente, questa qui è messa in atto dalla polizia, non certo dai manifestanti. Si sono viste cariche indiscriminate, numerosi feriti, su questo aspetto qui non si può discutere. Uno dei leader, perché il leader è uno dei volti, ecco, più che il leader è bene parlare di volti del movimento, Alberto Perino è ricoverato in ospedale con una frattura di un gomito, caricato chiaramente dalla polizia. Sono caduti ragazzi, sono cadute donne anziane, uomini di una certa età. Le immagini forse però più brutte, ecco, più scandalose a nostro modo di vedere, sono quelle sempre riferite a Chianocco, relative sempre a delle, queste volte qui non sono cariche, ma sono delle vere spedizioni di punitive, rastrellamenti. E qui c'è fare il paragone con quello che succede quotidianamente, che ne so, a Gaza, ad opera degli israeliani nei confronti dei palestinesi, o volendo un pochettino esasperare il concetto, quello che succede in Sydney, in questi giorni, Holmes in particolar modo, comincia a diventare non così irreale. Cosa succede? Succede praticamente che i carabinieri e la polizia, dopo aver concluso le cariche, hanno dato una caccia all'uomo nel paesino, quindi inseguendo e rincorrendo i manifestanti, fin tanto da bussare alle porte di un locale, penso che fosse un bar, delle immagini sembra un bar, comunque un locale, un bar, come mi conferma Samuele, hanno sfondato, le immagini sono eloquenti, chiare, si possono visionare sul web, in particolar modo su U-Reporter, hanno sfondato la vetrata della porta, hanno fatto ingresso, irruzione praticamente, senza poterlo fare, perché chiaramente per poter fare cose del genere, per poter entrare in un locale c'è bisogno di un mandato, suppongo. Come dicevamo prima, la legalità è una cosa che passa in secondo piano. È una cosa che è molto una variabile aleatoria, potremmo definirla. E difatti qualche anima pia, diciamo, con le telecamere ha ripreso tutto e si vede poi che praticamente all'interno di questo bar erano presenti prevalentemente uomini che avevano oltre, diciamo, la cinquantina, anzi oltre la sessantina, quindi gente che era abbastanza difficile potesse essere terroristi o pericolosissimi manifestanti che potevano ledere all'ordine pubblico, questa parola che tanto piace a giornalisti di ogni estrazione e a politicanti di ogni estrazione. Quindi veramente in barba ad ogni forma di legalità, concetto che dovrebbe essere caro a coloro che dovrebbero mantenere l'ordine pubblico, non certo a noi ma quanto a loro. Non fosse altro, la cosa interessante è proprio quella, che in tutte le manifestazioni del movimento No Tap, la caratteristica cardine è stata proprio quella di una certa non violenza, cioè della definizione di una resistenza. Loro avevano chiaro e hanno chiaro in mente quello che è il loro obiettivo è resistere alla costruzione, questa bomba ecologica, bomba ambientale che vogliono, su cui vogliono speculare i poteri forti di questa nazione. Il punto è proprio questo, è che quando cerchi di resistere qualcuno risponde. È chiaro però che questa quando la risposta si fa troppo pesante e l'elemento di Luca Abbade, del coma farmacologico di Luca Abbade, di questa persecuzione che hanno avuto negli ultimi mesi, la risposta non si fa attendere, perché è vero essere pacifici, è vero essere non violenti, però qualcosa devi fare quando sei perseguito. E perciò stiamo solamente resistendo in questo momento, mi sento anch'io un OTAV in questo momento, però ci sarà un poi, perché la determinazione non può non si può cedere rispetto a questi punti in cui si gioca il tutto per tutto. Volevo aggiungere qualcosa? Ultimissima cosa, il ministro degli interni Cancellieri ha dichiarato chiaramente, come è prevedibile, che le violenze devono subito cessare. In questo caso qui vorrei chiederle quali violenze, quelle che operano i suoi subordinati, i poliziotti. E poi ha detto siamo aperti ad ogni forma di discussione, ma la TAV si farà, quindi non vedo cosa serve una discussione nel momento in cui la posizione è ferma, quindi è assolutamente inutile. Detto questo, RVM la regia. La benzina è aumentata ancora. A me che cazzo me ne frega a me? Io c'ho il diesel. Peppe, vai con un pezzo. Bandito atteso ad un approdo senza età, nato tra le faide di una terra violentata, frammenti spenti nell'insana fedeltà di galleggiare su una vita barattata, nell'incoscienza affondano. Mercanti della vita, fabbricanti della morte, danni nel silenzio di chi affonda la mia sorte. Il viaggio scuro segue il mio compagno ovunque vada, c'è il dormito dentro in questa notte amara di terrore, mi riprendo la mia strada. vita, padri dell'indifferenza, che mendicate onore in una vita d'apparenza. Vengano, signore, ad affondare la mia sorte per timore della mia coscienza. Padri miei onorevoli dell'era del contrario, fantasmi che giocate a che io cada qui nell'ultimo vagito di un gitano sedentario. Gendarmi del dolore altrui, in questa notte amara di terrore mi riprendo la mia strada. Ecco qui, questo era un pezzo dei Talco e noi dobbiamo chiedervi scusa perché prese il nostro amore per il movimento No Tav, dalla nostra empatia per il movimento No Tav, e abbiamo fatto saltare in questa puntata nella programmazione la rubrica dell'università, c'era una volta l'università, alla prossima puntata. Ricorderemo che parleremo di 180, quindi tenete le orecchie tese. Adesso è arrivato dalla regia un comunicato, due comunicati che non posso non leggervi, sono delle news importanti. Scala Celi, Cosenza, giovedì 1 marzo 2012, minacce di morte, insulti gravi e di vario genere, aggressioni verbali, urla e sputi, protesta senza alcun limite e fine a se stessa. Amministratrice, amministratore e collaboratore Bieco, tecnici regionali apostrofati come mafiosi. Non usa mezzi termini la Bieco SRL di Rossano, titolare della discarica di rifiuti speciali non pericolosi, realizzata nel terreno di Scala Celi, nella circostanziata denuncia che la stessa depositerà alla Procura della Repubblica di Rossano. Ciò a seguito di quanto subito, unitamente ai sei tecnici dell'ARPACAL, nella giornata di ieri, mercoledì 29 febbraio, in concomitanza alle previste operazioni di verifica del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione AIA, rilasciata a favore della stessa società, così come richiesto al Dipartimento regionale per le politiche ambientali. Atteggiamenti doppiamente gravi, fa sapere la Bieco, sia perché interpretati in prima persona da rappresentanti istituzionali che dovrebbero preferire l'equilibrio anziché instigare facinorosi all'odio e alla violenza, sia per l'ancor più intollerabile e mediocre tentativo di voler far passare sulla stampa e nell'opinione pubblica una ricostruzione dei fatti diversa, falsa e del tutto inventata, al solo scopo di giustificare comportamenti che restano irresponsabili e inaccettabili in uno Stato di diritto. Altro che assenza di Stato, come qualcuno si lamenta in questi giorni. Quanto verificatosi ieri davanti ai cancelli della discarica rappresenta un'offesa alla legalità e alla trasparenza arrecata da quanti dovrebbero rappresentare lo Stato. Nel merito non vi è stato alcun impedimento da parte della Bieco nel prendere parte alle operazioni di verifica dell'ARPACAL. Eventualmente l'accompagnato, come gli è stato ripetuto a più riprese e con assoluto spirito di collaborazione, da propri tecnici comunali. Quanto riportato sulla stampa e sul web è del tutto falso. Bieco ed ARPACAL non hanno fatto altro che attenersi a quel rispetto delle regole e delle procedure, note del resto e non da ieri a tutti i soggetti coinvolti interessati, regole peraltro che qualche esagitato amministratore del territorio avrebbe voluto stranamente calpestare, imponendo con arroganza e con prepotenza documentate la partecipazione di soggetti non autorizzati, non essendo tecnici comunali. Tra questi, ad esempio, il signor De Renzo del comitato No Discarica, l'avvocato Nardi, in rappresentanza di alcuni proprietari terrieri locali. Abbiamo richiesto l'intervento dei carabinieri, fa sapere la Bieco, nell'immediatezza del fatto. Intorno alle ore 12 della giornata di ieri, allorquando una ventina di persone, tra cui amministratori locali e qualche giovane incappucciato, incline allo sputo, avevano chiaramente dimostrato l'intenzione di ostacolare con qualsiasi mezzo il regolare coinvolgimento delle procedure di verifica. Quest'ultima si è poi svolta regolarmente senza la partecipazione del sindaco Salvato, volutamente ritiratosi senza alcuna costruzione da parte di nessuno. Questa è la favoletta che abbiamo voluto raccontarvi del comitato della Bieco SRL di Rossano. A questa, come dire, cronaca come dire, esemplare, non voglio aggiungere altri aggettivi, della giornata di ieri in cui l'ARPACAL andava a visitare la discarica di Scalacieli, risponde il comunicato del comitato. Il business dei rifiuti tenta di cancellare ogni istanza democratica, la diffamazione è una missione di colpevolezza. Mercoledì 29 febbraio per questa regione è stata una giornata storica. I sindaci del territorio, accompagnati da decine di persone dei comitati cittadini, sono stati estromessi dallo svolgimento delle proprie funzioni di tutela delle comunità in occasione del sopralluogo dell'ARPACAL alla discarica di Scalacieli. Da parte di un'azienda privata che opera sul terreno nel campo dei rifiuti. Non si tratta di una questione di forma, ma di sostanza. A causa delle pressioni dei proprietari dell'impianto, infatti, l'ARPACAL si è trovata dietro a un cancello chiuso a trattare anche gli intrattabili con i sindaci ed i cittadini che dovrebbero servire e garantire. È stato impedito persino al sindaco di Scalacieli di prendere parte al sopralluogo insieme ai propri consulenti tecnici, un ingegnere ed un avvocato, con goffe giustificazioni non da parte dell'ARPACAL, ma sempre da parte dei proprietari della discarica. Si è trattato di un espediente ridicolo con cui si è tentato di impedire a persone competenti di informare gli enti di controllo su tutte le faccende inerenti alla discarica, il che, al di là di ogni tecnicismo, dimostra una verità politica. L'azienda ha paura degli occhi vigili del territorio. Se questo era già chiaro nella giornata di ieri, ne è la controprova il comunicato delirante della stessa azienda, alla cui lettura tutti i presenti, forze dell'ordine comprese, si saranno fatti quattro risate. Anche questo è un goffo tentativo, una strategia comunicativa per tentare di distogliere l'attenzione sulla questione importante, ovvero la regolarità e l'impatto della discarica, diffamando qualche sindaco e lavorando con invidiabile fantasia. Non entriamo inutilmente nello specifico, anche perché tutto è stato documentato e sarà reso pubblico al momento opportuno. Ma ne estrapoliamo un altro dato inappugnabile: chi si difende diffamando ammette la propria cattiva fede. Si tratta probabilmente di gesti nervosi, quasi disperati, di chi vede in pericolo il proprio business. Tutto sommato lo troviamo comprensibile. Allo stesso tempo ci dispiace molto, in quanto non abbiamo mai ritenuto e continuiamo a non ritenere le aziende private un nostro interlocutore. Come ogni azienda, infatti, la proprietà della discarica non fa altro che perseguire legittimamente il proprio profitto. Nostri interlocutori sono solo gli enti pubblici, che devono impedire che tale profitto si ottenga a scapito della collettività. Certamente, se qualcuno intendeva usare questo tipo di strategia per spaventare qualcuno o bloccare l'attività dei comitati territoriali, ha fatto un bel buco nell'acqua. Questi espedienti funzionano solo con i bambini, con individui in malafede, non con cittadini attenti. Questo era il comunicato del comitato rispetto alla questione della discarica di Scalacieli. È una notizia dell'ultima ora, fresca, che noi abbiamo avuto il piacere di darvi in diretta. Abilitiamo un ultimo lancio e poi vi lasceremo alle note candide della nostra sigla, dell'iniziativa che si terrà in P2 mercoledì 7 alle ore 11:30 e poi a Cosenza alle ore 15 in una sala che stiamo già cercando. L'iniziativa consterà dell'intervento di diverse realtà cittadine come la CGL che vogliamo, il collettivo P2 e la rete in difesa del territorio, che tratteranno di quella che è la crisi e quali sono le risposte istituzionali della crisi e quelle che sono le risposte invece che più adeguate a quello che è i bisogni dei cittadini, i bisogni della gente. Perché un'iniziativa con questi tre soggetti diversi? Perché è una crisi che, come vediamo, colpisce sia la questione ambientale, come vediamo palesemente dalla Val di Susa, sia la questione del lavoro, come di cui abbiamo parlato benissimo, parlando di disoccupazione, sia la questione universitaria. Sono tre aspetti, noi crediamo, di una stessa speculazione, a volte si identificano anche gli stessi soggetti che mettono in atto questa speculazione. Di fronte a questo attacco talmente organizzato, noi non possiamo stare a guardare, e queste iniziative di mercoledì 7 non sono altro che una